English Bit di Giulia Crivelli. Actually, why the Republican establishment is actually winning. Il Washington Post titolava così un post, per l'appunto, di uno dei suoi molti blog dedicati alle primarie. La traduzione è: perché l'establishment repubblicano in realtà sta vincendo. Sulla parola establishment forse c'è poco da aggiungere, perché è una delle tante espressioni che molte lingue europee, tra le quali l'italiano, hanno adottato per indicare la classe dirigente di un certo settore. In questo caso si parla di quella del Grand Old Party, il GOP, cioè il Partito Repubblicano. Più interessante e curioso l'avverbio actually, che è anche un false friend. La traduzione infatti non è attualmente, ma in realtà, così come actual, l'aggettivo, significa vero, autentico e non attuale. Attualmente si direbbe, in inglese, currently, at present, at the moment. Vediamo qualche esempio, sia per l'aggettivo sia per l'avverbio. I need the actual figures, not an estimate. Ho bisogno di dati reali, non una stima. Oppure, you were friends and then had a terrible argument. What were the actual words of your ex-friend? Eravate veramente amiche, ma poi litigaste terribilmente. Quali erano state le esatte parole della tua ex amica? There are lots of people who can actually help you. Ci sono tante persone che ti possono realmente aiutare. Notiamo qui l'uso di lots of, un sacco di, potremmo tradurre un po' gergalmente, tanto che a volte alla fine di una lettera si scrive lots of love, con molto affetto, amore. Ma la parola actually questa settimana ci interessa, e speriamo interessi tutti voi ascoltatori, anche per un altro motivo. Da giovedì scorso e fino a giovedì 26 maggio, con il Sole 24 Ore, sarà in edicola English Actually, un corso d'inglese un po' diverso dai soliti, e ciascuna uscita sarà dedicata a un tema. Il primo è il cinema, giovedì prossimo toccherà scienze e tecnologia. E per chi vuole è prevista un'interazione carta web all'indirizzo www.sole24ore.com/English-actually. Si troveranno ogni settimana tracce audio che integrano i contenuti dei fascicoli, dove ci saranno molti articoli tradotti da giornali americani e inglesi. Perché ricordiamolo, English is a very rich language. Si calcola che abbia 500.000 lemmi, il doppio dell'italiano.